Siamo con l'artista Lorenzo Terranera per parlare dell'inaugurazione di un nuovo spazio culturale, la nuova sede di Officina B5 a Roma, quartiere di Trastevere, Piazza San Cosimato. Lorenzo, ben trovato. Grazie. La Presentaci tutto. scuola è una scuola, chiaramente, ovviamente, un'associazione culturale di illustrazione. E quindi noi per 2 anni i ragazzi, diciamo, si cimentano in varie discipline, comunque sono sempre legate all'illustrazione. Nel primo anno abbiamo tutte tecniche e nel secondo, diciamo, sono materie un po' più applicate, insomma, quindi illustrazione per l'infanzia, satira, c'è una parte fumetto, animazione, stop motion, insomma, ci sono parecchie materie. La scuola è una scuola a numero chiuso, ogni anno prendiamo una decina di ragazzi, sono 17 insegnanti, per i professionisti, quindi che lavorano in questo campo. La scuola esiste da circa 15 anni, la gestione, diciamo così, nella parte organizzativa la curiamo io e Fabio Magnasciutti, e da quest'anno, insomma, ci è capitata questa occasione e quindi ci spostiamo in piazza. Prima eravamo su Via Bertani, adesso siamo scesi in Piazza San Cosimato al numero 39, e in uno spazio bellissimo, pieno di luce. Che a quanto mi raccontavi sarà uno spazio polifunzionale. Esatto, e sì, infatti, essendo uno spazio molto grande, una parte appunto è destinata alle lezioni che si svolgono dalla mattina, è un tempo pieno, quindi dalle 10 alle 5, dopodiché lo spazio nelle nostre idee si dovrebbe trasformare in qualche modo, sempre comunque legato al mondo delle immagini, insomma, quelle che sono le nostre attività principali, insomma, quindi legate al cinema, al teatro, a libri. Noi iniziamo domenica con una mostra di Sergio Staino, la terremo una quindicina di giorni e dopodiché si affiancheranno in questo programma che prima o poi renderemo noto, si affiancherà la musica, la parte musicale, diciamo, è affidata a Roberto Angelini, mentre per quanto riguarda il fumetto e l'animazione a Luca Raffaelli, mentre Sebastiano Bazzini, insomma, si occupa della parte, diciamo, legata al cinema e quindi di proiezioni, ecco. Io sarò un po' un jolly in questo caso, non mi sono ancora schierato, lo farò, insomma, appena vedremo la fine di questi lavori. E comunque, insomma, ormai ci siamo, siamo in chiusura. L'idea di cui mi accennavi è anche di un appuntamento fisso. L'unico appuntamento fisso che per adesso, che in qualche modo su questo siamo d'accordo, è il 16 di ogni mese una proiezione in 16 mm. Punto fisso questo qua dovrebbe essere. Io credo anche dal 16 di ottobre. L'idea più solida fino adesso è questa. Gli spazi, com'è organizzata, com'è strutturata dentro? Dentro è strutturata che appunto c'è una parte, diciamo, alta e c'è una parte bassa. Allora, questa parte alta è quella dove si svolgono le lezioni, ma anche lezioni serali, incontri serali. E poi c'è un di sotto che così, insomma, l'abbiamo chiamato. E il di sotto è, insomma, dove si svolge un pochettino invece la parte, quella un po' più di presentazioni proprio, quindi aree dove le mostre, piuttosto che le presentazioni di, che ne so, libri o quant'altro. Lo spazio, tra l'altro, lo stiamo attrezzando per qualsiasi esigenza, insomma, che può essere una proiezione, ma anche una presentazione, ma potrebbe essere, cioè, una sorta di palchetto trasversale, insomma, Dinamico. sì, con poche cose, insomma, ecco, di modo che può essere in qualche modo liberato a seconda delle esigenze. E riferimenti internet? Noi abbiamo il nostro sito che è Officina B5, nel quale, insomma, si trova un po' di, cioè, trovate tutte le informazioni per i corsi. Tra l'altro sono in rete anche gli orari di quest'anno, più o meno provvisori, però ci sono, e ci sono gli insegnanti, insomma, una breve presentazione delle persone, dei professionisti, insomma, che insegnano. E se no su Facebook, io non sono molto pratico, però insomma io credo che scrivendo Officina B5 e anche attraverso il sito si arriva al Facebook, dove comunque ci sono delle comunicazioni un po' più così veloci, e Certo. trovate informazioni sulla mostra di Staino di domenica, insomma più o meno gli orari, che è dalle 5 e mezza in poi, ecco. Ci sarà un po', insomma, un po' di sorprese, insomma, Po' di vediamo. sorprese. Ricordiamo l'inaugurazione della nuova sede di Officina B5, 30 settembre a Piazza San Cosimato. Un saluto e un ringraziamento a Lorenzo Terranera. Lorenzo, un abbraccio e ci si vede lì. Grazie mille, Ciao. grazie, ciao, buona giornata, un saluto.